rispose, ma anch'io. E pensava a letto, tutto quanto insieme ci aveva. E al centro della camera c'era questo dipolo steso, di lungo da una parte all'altra della camera, con due, come si chiama, due tasselli a occhiello, che tirava da una parte all'altra, e lui ci aveva un cattadino a due, me lo ricordo ancora. Cavolo, ma deve esserci uscito sfortunato quest'uomo, a vivere così anche. Beh, dice che era dalla delusione della moglie, boh, che l'ha lasciato e ha cominciato a bere, si è andato in questo magazzino a abitare e si stendeva la roba sul dipolo, perché la regia dava il fatto, la rosa verde si chiamava così perché c'era una rosa verde davanti alla morte, c'era la lambretta. Ma la sarà morto, no? Era barbone, ogni tanto si vedeva sulla Woody Woody, adesso non l'ho più visto, però anche d'estate si vedeva con un cappotto pesante e questa bisaccia sulle spalle. Ma sarà dalla vive ancora quest'uomo? Non lo so se è morto, non te lo so dire. Ma la di morte è Rosa Vera. Non lo so, manco un attarino. E comunque viveva in condizioni molto precarie, in una via del corso, una traversa del corso. Araccio, via. Era uno sbabuzzino, un dibuccio lì. Nemmeno due metri per due. Era proprio uno stanzino stretto stretto. Io certo che l'ha presa male. E poi l'avevano arrestato una volta perché si era allacciato al telefono di un'altra persona. Aveva il telefono a casa sua, a Rocco. Ma cosa devo fare? Cioè, Antò, non c'era manco luce in casa, c'era una batteria di macchina per far andare il baracchino. Un giorno sono andato a trovarlo, ha alzato la batteria della macchina, già che ti metti da 100.000 che c'aveva. Cioè, c'aveva un sacco di soldi. Cappa, mi ha detto, a me i soldi cappa non mi mancano, cappa. Però io mi bevo le bionde adesso, non ne voglio più le donne. Puruetto, cabaretto. C'era a far bene, non mi piacere finito qui. Poteva vivere una vita tranquilla, cioè con la cosa che ci aveva. È puruetto, cioè, notavo che non ci sia neanche come, poteva fare un'altra vita più bella. C'è gente che si fissa con una donna e non lo smuovi da lì, se si lascia si rimuove così avanti Natale, tu che sei il tenditore di donne, Natale sei il tenditore. Non mi puoi rispondere perché se no ti arriva a mattare lentezza. Non è là. Picchialo, coce, picchialo. Non entra, lei non le piace. Sì, bene. A mia moglie. Danno il caldo. Tu sei rosolito. Sì, è un brigantino. Tutto rosolito tu. Perché non sei brigantino? Iaia. E sono brigantone, Nasi. Nasi? Vabbè, Antoine, e te mi rompi. Sono niente. Ma Antonio, sei dormito. diceva che ti sei addormentato perché si ti sono meglio, e cosa vuoi dire che questo che lo faccia addormentare, riconcilia il sonno. Così. Stavo scherzando, stavo leggendo. È tutto uno sganto, concetto. Che mi stai guardando? Concetta, ripeti i film che stai guardando. Allora, ti ripeto, ho detto che sto guardando il film senza pagare il diritto. Grazie a te, che sono parlando. Ah, che sarebbe il Natalino, così è. Allora, sì, è Natalino, è stato fatto per la festa, senza pagare il diritto. Ah, ecco. Acro, come? Signora Concetta, oggi. Che io e Natalia siamo due perfetti attori che si sta guardando il film senza pagare il biglietto. Ah, ah, ah. Adesso un film. Ha detto che non si può vedere lui. Gappa. da lui e ciò ci deve raggiare in qualche maniera. Si copre la villetta, ce la mette dove vuole lui. Pagata. Bene, una tariffa. Lo so. Puoi farti sentire almeno, non è che... Natale, ma Antonio, già, prendi, è un casino a terra lì, al primo piano, lei è un casino. Gappa, gappa. Già, però magari anche non facendo molte cose grandi, si sa che, secondo che zona è, anche un incastorno, cioè lì ti intende dappertutto, là, arrivi qua, arrivi là. Riesci a sentirle. Quanto è che costa la storia? Cosa costa? Una ventina di euro, 20-30 euro. Non lo so. Se si la prende a mangiare dal bullying. E gaffa. Vabbè, se uno non... Vabbè, paghissa preferisco prendere la cosa, ma comunque... La Ringo. Cappa. Ma mi è piazzata dentro casa, tanto la Ringo non ci sta. Cazzo, mia antenna. Faccio la roba cosa. L'ho montata già. Ma montatela. Di notte, cioè. Capite un capo per questa cosa enorme. Fatta uscire dalla finestra. Chiappa, ebbè, già l'ho provata, c'è un sacco di volte, anche l'altra, è enorme, cioè appena più bassa della tua. Quella che ti ho dato io, quella che sembra manico di scoppa, quella lì la ringo lo stesso. Chiappa, no, ma è più bassa quella però, ma quella lì è parava, io me lo ricordo che sparava da tutte le parti. No, già sparano, già sparano, a Vuglia. Sono sicuro che anche se monto quella lì, che si para davvero. Non mi ricordo se è una ciclotapia anche, quella che c'è che te la Dudu. No, o forse è un quarto d'onda. Cioè mezz'onda volevo dire. No, le ringo non sono 5 ottavi, Anto. Non sono 5 ottavi, però vanno bene. Sì, già credo che vanno bene. Cioè se l'avrei voluta montare, se l'avrei fatto in TD. Cioè, se avremmo fatto cosa da fare, cioè, sarebbe stata magari un pochettino di più e una pena di meno, ma poi ti avrei recuperato. Io vabbè, quello lì non c'è problema. E lo sai come ti bisogna fare a far recuperare? La ragazza, a tal. A tali. Prendi, riprendi. Ma sto facendo, se per film sta guardando. Così è. Così mi piace senza pagare, così è. A pagata. Noia. Oggi è una stanchezza allucinante. Sono già 4 giorni che entro, mezz'ora prima, me ne vado via mezz'ora più tardi, anche un'ora a volte, entro prima la sera, esco più tardi la sera, non riesco più a recuperare. Va bene. Antonietto! Già! Bisogna scogitare qualche cosa per mettere l'antenna di notte. Sono lì. Mi trovo il borsello, Marconi. No, non ti Mi sono addormentato con il microfono schiacciato. Appagaffa. Sentiva russando, poi sentiva tuo figlio, lo ricordi dopo che ho sentito tuo figlio? Russando, sì. Allora, te la dico di là, ma poi tu voglio che fa un microfono a pezzo che si intende tutto, no? Che... come punente da portante, sai com'è un bel volpe, mi ha ingannato mia, e invece eri due ieri che ti aveva già due cose a bella. Aspetta che c'era te, non mi stai facendo qualcosa, l'antarina. Santiago 7. Passiamo nel FM sul stesso canale. Andiamo là. Allo, mi senta a me? Io sì. Tu? Tu, dove sta lì? Non so cosa succede. Sta facendo un segnale in più. Passate da ebrei. Poi si sente meglio. Ho visto cosa vuol dire la stanchezza. Ti fa drummi di gol. Se fate credere che la cacona brilla mi barro un culo. No. Ma ha detto Marco, papà, guarda che c'è il microfono aperto. Appagaffa, perché l'ho telefonato io. E tu vai di là a Bordoglio che fare un microfono a peggio che si intende tutto. Vabbè, non è che c'è nulla da guarda, ma diciamo che la russata mi è piaciuta. Io prima, in primo momento, c'avevo le cose, le... e come si chiama? L'affare è normale, cioè, ho detto, ma l'anima canto mi sono punendo la portante, poi me lo dopo un po' l'ho realizzato, ma ho detto, una mappa che tiene in fare mi sono punendo la portante. Poi dopo sono riuscito a realizzarlo quando ho sentito a Marcolino. Ma sai perché? Perché mi sono coricato a pancia a terra. Con il microfono schiacciato che schiacciava un folletto, capito? E per quello che è rimasto schiacciato. Ma poi senti in via che sta zorra, senti in via. Ho fatto il volume e senti la zorra, raga. In diretta, via. Guarda lì. A un primo momento l'ha giudito puro, ma... Caffè, la reno deve uscire, ma fumendosi, fa questo che fa, come la portante, fumatore, la giudizio. Tutto io che non sto fumando, ma io non lo sapevo che sono ragghente, cioè me ne sono accorto dopo. Yes. Vabbè, avete sentito il sovracco in diretta. Cappa, pure Natalino l'ha sentito. Boh, Natalino. Non risponde, boh. Forse sta sperimentando, sarà. Io la sorrando, boh. Non penso. Provente, riprovente. Capito, Antonio, concentrati a parlare con lei, Natalino è occupato. Gappa, se riuscire a sentirla parlare con lei, Si riesce, Antonio, arriva. aspetta che c'è il baracchino vicino a vedere se ti sento. Se avremmo avuto il baracchino vicino l'avrei sentita. Ah no, un'incannonata mi sei arrivato. Cosa tu? Un'incannonata mi sei arrivato, ah no. Comunque, bisogna trovare un metodo per far uscire bene a concetto. Bisogna provarlo, sì. Così almeno parliamo tutti. Beh, almeno un po' mi sarebbe dovuto arrivare. Ma Natalino, bisogna dirlo. Pure in linea d'aria, sto pensando, non è lontano. Che non sia lontano, ma magari è negativo già. Chi lo sa, bobo. E quella è la di modulazione. E non lo so se vuole dirlo al baracchino, capito? Gappa. Con c'è? Guarda, io ascolto. Antonio sta partendo, dov'era la tua zona di modulazione? Ascolto il prefisso. Copiato? No, l'ho già detto. Zona cosa dritta? Gappa, un po' così, No, è libero così di te, Antonio. È libero. E solo che loro sono in basso e sono dentro un vicolo forse. Ebbene, non è che sia molto. Se ti muovi la 90 va già a vivi. Chiaro, se ti muovi pure una antenna arrivi. Però vuole libera sempre. Arrivi, non dico che deve essere per forza quella, ma un'altra antenna anche più piccola arriva lo stesso. Aspetta, se vedete come ce la valisce la terra da su sale. Ce l'hanno fuori dalla finestra legata alle gratte della finestra, fatti un gol. E te lo so. L'hai mai vista? E poi usciva. Sì, insomma, non era al massimo, ma. Ehi, non era al massimo, ma si faceva sentire tanto. Sì, sì. C'è? Vabbè. E perché devo parlare? Tu vuoi parlare? Parla anche tu. Adesso mi arrivo meglio di prima o peggio di prima? Prova con c'è, parla. Vale. Più bassa. E meno di 7, sì. Ma stai combinando? Poi lo riprendi. Cosa sta combinando, signora Concetta? Concetta, cosa stai combinando? Allora, adesso ti faccio un po' e c'è una faccia che sta spostando l'altra. No, mi ha detto che c'è l'antenna che sta provando a spostare l'antenna per vedere se il segnale è migliore. Come te che è in trasmissione. Allora, ho già sentito la rita, ho già. Ma la cazzo? Io, già me lo ritrovo bene, azzurra. Azzurra? Va. Colore del camper. Perché il camper è azzurro? Vabbè, di solito si usano così nel camper. E comunque il colore è quello, azzurro. È bello mi azzurra. È come la mia, tu. Tu è blu. Io penso che sia come la mia. Cioè, non è blu la tua. E blu, azzurra, insomma, quella lì, o c'è così o c'è rosso, c'è verde, mi pare. Ma mi sembra che è un azzurro chiaro, me. Non lo so, bisognerebbe vedere. Ma oggi ho acceso con comprare. Acceso, Va. E io sono arrivato ben tardi, ero stanco morto, un tuffo, gribando. Non avevo, mi dovevo fare il bagno, non avevo voglia manco di quello, avevi. Il capo si trova a farlo in sera, se non è andato. No, già me l'ho fatto. Avanti, Conce. Conce. Oh, va. Per io non stai arrivando nulla. Cioè, stai parlando, non stai arrivando. Eppure, ragazzi, l'avrei voluto vedere un camper come è fatto dentro di quelli nuovi, perché io già ci sono stato dormito anche dentro il camper, ma Era di quelli 2.38, di quelli tipo V. C'è bello davvero, quello che ha accolto è bello, è un nuovo Fiat Ducato, mi sembra che sia, non me lo ricordo bene se è un Ducato, mi pare sia un Ducato, vuol dire, non me lo ricordo. 2.38, gli amici miei, e sai quanto lo stanno ripiangendo, tanto perché l'hanno venduto, stava pagato 3.000 euro, mi pare, una cosa del genere. Sono andato in continente a pigliarlo, ma tu devi vedere com'è là dentro. Questo amico mio si arrangia a fare tutto, aveva fatto tutto quanto i moquette dentro, aveva rivestito il legno, l'ha rifatto tutto a nuovo, completamente, dentro. Sembrava un camper nuovo, tutto lavandino, tutto grande l'ha rifatto. Oh, questi nuovi che stanno uscendo adesso sono un bel belle, praticamente funziona così, cioè vuoi il salotto, ti apre il salotto, vuoi la cucina, apre la cucina, un bel carino, non vedi niente, hai capito? La sera togli i letti e ripieghi la cucina. La scomparsa sono. Sono un bel belle. Comunque quello che Rita ha venduto lo rimpiange ancora, perché con quello lì andava da tutte le parti, c'aveva anche l'impianto a gas, consumava poco, ma l'impianto a gas c'aveva il bombolone sopra al tetto. Chiaro, quello vecchio. Ma questo nuovo è bello, mi sembra sia diesel, se non mi ricordo male. C'è solo il fatto di alzarti la mattina, prenderti il caffè e vederti il mare, che alle 7 di mattina il mare di fronte, sai quanto è bello? Lo so, troppo bello il camper. Il camper è una casa viaggiante, va dappertutto, cioè, te la spazio è la grande, se si può, se c'è la possibilità per poterlo fare, cioè, è un paradiso. Vabbè, lì troppi soldi ci vuole. Le macchine, motte, camper, barche, queste, quella. Troppi di là. Lo so, ma se uno lo può fare il camper è la miglior cosa, secondo il mio parere. E a me già mi piace pure la barca. Vabbè, anche la barca già è bella. Allora, senza fare tante pretese. Anche quello, esci dal sud Sardegna, mi sta mentre a stare. Da un giorno, cioè se uno ha veramente la possibilità, vai, quindi decidi da una parte, decidi dall'altra e te la spazio alla grande. Lo so, sì, se la possibilità già è una bella cosa, tante cose si desiderano, si possono prendere, perché se cominci spese qua, spese là, tu non vi avrai più da buoni. E se no io prima del campo mi avrei preso un'imbarcazione per andarmi a pescare, andarmi in gita, in mare, e quello l'avrei sfruttato ai piedi del campo. Gappa. Vabbè, è bello anche quello, carità, è bello. Però anche quello lì non dispiace, sai, il gatto un mese di fila sempre in giro, sai, però purtroppo devi anche avere la possibilità, devi essere possibilitato anche con la barchetta, cioè anche con la, non me la dispiace tutto lo stesso. Io con l'amico mio ne ha due robe di barche, una a 12 metri e una nella pilottina. Con la pilottina siamo andati una volta a farci un giro verso Alghero, poi ha detto che conosceva un posticino veramente bellino. Ci siamo andati in un posto che era praticamente sotto costa, tu potevi ormeggiare la barca e sotto c'era il mare che sembrava una piscina, ma cazzo, limpido, l'acqua limpida, limpida, limpida, si vedeva affondare. e tutti si facevano il bagno, si tuffavano dalla barca, si facevano il bagno, poi si asciugavano un po' e si ormeggiavano la barca lì per mangiare. Ma c'era una bella visuale. Gappa, gappa. No, quello vuol dire godersi veramente la vista a capo. È bello così, eh. Lo so. La gente che è ricca e si può permettere tutto. Con il ricco ne ha una alghera e un assentino di barca. Immaginati tu, quale sentito 12 metri, addirittura c'hai i letti, le cucce è grande, di quelle abitabili frutto. Ma quante cosa ha fatto chi ci sono tante poi a quello? Un bel di là avanti, un bel. Fa un lavoro che anche a te piace, quello, il tipo di lavoro che fa. Diciamo che tu usi quello che lui piazza. La fa service. Dove la va? Jackpot. Ma gara. Macchinette. Quelle mangia soldi. Ah! Ehi! Però ragazzi, a cacca euro così, ma niente di particolare. Ma lui le piazza le aggiusta, capito? Sì, oramai, mi pare che c'è un pensierino bisogna farcelo, cosa mi dici? Giuga? No, a punirli in giro. Lui, diciamo, con le macchinette lì si è fatto un bel gruzzoletto e sta continuando a farlo. E che dopo più ne pone in giro più guadagni, mi chi guadagna più che stato per rubarmi. Cioè se tu c'è tutta la di Eugenio non rubare più il ragazzo, però più che guadagna che sto della macchinetta. Mi pare che a lui paghino l'affitto, non lo so come. Comunque gli era tutte le parti, fuori, nei paesi, ne ha Sassari, ne ha tutte le parti, e poi non piazza solo quelle, piazza anche quelle con le palline che ci sono in peritoma dentro, tutte queste cose qua. Bello, veramente sicuramente ha qualche giro grosso anche. Mattarino, sei, sì. Un attimo già che vado in bagno. E la riprenda, là. Io vado in bagno. Deve metterci qualche lavoro dove si fanno soldi. Ma Natali. Natali. Ehi, a Natali. Guarda, più forte di secchi adesso. Prova. Guarda un po'. No, più basso di segnale. Adesso la faccio fare la pena, però. Più basso il segnale adesso. Adesso è 5, e di 7. Che magari essendo un ricco c'hai i palazzi davanti, le case davanti. Ho già detto, bisogna mettersi un nuovo lavoro. Ma vedo che l'altra notte sono andato a pescare e c'era questa qua. Vabbè, sono andato dalla sera verso le 8, dai, 8 e mezza. E c'era questa qua nella spiaggia con un metal detector cercando, ho detto signora ha preso qualcosa, no io cerco quello che perderò gli altri, poi me lo faccio sciogliere e me lo vendo e me lo pagano loro. Dammi. Di Genova è raga. Dammi. Sì. Se ne comprende tutte, c'è qualche sovramodulazione, boh. Il problema di Zarano. Ah, aspetta un attimino. Grazie. Grazie. Come te è già? Dai, ho capito tutto. Che gamba. Manco ne tengo io, allora. Grazie. Ehi. Guarda, Natale sta facendo un po' la prova, Natale. Guarda adesso. 5. Natalino.